dal 48, quello buono. L'export, si chiama export. Li fanno, anche un sito li fa. Belli apparati, escono belli, potenti, chiari. E come mi nasce così? Danni. Ehi, a che sei? Ma perché non vuole andare a coricarvi, aiuto? Andando ce ne stiamo. E capo dove siete? E io sono qua, via cosa, come si chiama, via Marra. Ah, capo Marco. Leoncino, io sto andando via adesso che devo montare l'apparecchio che era smontato. Come ti sta arrivando Marco lì? Guarda. Quello che va controllato bene. Prima, per ricevere deve essere attaccato. Attaccata all'alimentazione, perché senza alimentazione non riceve. Dopodiché controllatelo con un carico fittizio e deve staccare, che sennò può fare danno. Via. Com'è questo apparato? Ti piace, Marco? Sì, esci bene. Che apparato è? Questo è un Galaxy. Galaxy, ma quale? Perché ce ne sono belli modelli. Galaxy 2. Uè? Boh, non mi ricordo, no, lo controllerò. Ehi, io te lo faccio vedere quando lo piazzo in macchina, vai. Gaba gaba. E quanti watt ha di suo? Questo sta venendo con 3 watt. Quindi vanno bene per pilotare quello, perché c'è fino a 10 watt hanno di pilotaggio, però 10 sono troppi, esce male, fa un casino. Vabbè, già lo so. Vabbè, dove sei arrivato Gianni? A Ponte Nuovo, so. Cazzo, c'è a fondo scala. Stava brava. E a te Marco, come ti arrivo? Ti faccio Smith. Smith non ce n'è, ah, lo credi, buono, come il vino. Ti spacco lo Smith. Ciao Lucrezia, buonasera. Ti spacco lo Smith, Gianni. Ehi. Lucrezia. Ciao Giuseppe. E guarda come sta uscendo questo qua con 3 watt, Luca. Ma c'è la nuova. Cappa. Cos'è? Con 12 watt esce questo. Questo? È la cola. 12-120. Lo sta uscendo con... Hai già capito Gianni con cosa sta uscendo questo? Hai capito? Dove torna? Dove torna? Quello che avevo in macchina, Già hai capito quanto sta uscendo, no? Già lo sai quanto. Bravo, bravo. Non distorce nulla? Che non distorce? No, non distorce no, perché... lo sai, no? Questo solo liscio, così, è tosto. È attaccato, e è un altro tosto. Quello è io. Cappa, e poi già... quando ci vediamo in verticale ti spiego un'altra cosa che mi è venuta stasera in mente al cielo Antonello, che dobbiamo fare una piccola modifica, hai capito? Ehi, ve ne approfittate perché avete le antenne sul tetto voi, Basta piazzarne, Marco, te l'ho detto, quando vuoi piazzarti con l'antenna che hai comprato, la Ringo, non c'è problema, ti vengo a dare una mano, veniamo e te la piazziamo. Tu c'ho sulla finestra. Io c'ho dove c'è il bagno. E c'ho sulla finestra, io c'ho la boomerang. Tanto fa. E la boomerang. Come Torre Biggio che aveva la Mantova 1 attaccata al terrazzino. Sì, tu, che cosa sei? Io sono via Nizza. Nizza, ma ne arrivo lì. E vabbè, qua arrivi sempre fondo scala. Sia in casa in attenino che in macchina. Chi sei tu, non ricordo? Marcolino. Marcolino, è vero. Ci ha lavorato là sul tetto, ha lavorato là a 5. com'è il segnale? Era mobile. 1-2-3. 1-2-3. Sì, 9 più 10, a picchi di 20. Addirittura a picchi ha questo misero baracchino. Ecco, se non è il baracchino suo, Luca, è stato su un microbo. Grafici positivi. Luca, prendi due pacchi di sigarette e affiancali, no? Questo è poco più grande di due pacchetti di sigarette. Ho capito più o meno, là. Mi su internet lo si chiama Lafayette Ares. C'ha volume specie canali. Poi vabbè, canale 9, scanner. E giusto per la concessione l'ho preso, non caso di controlli, no? Allora io vi saluto, buonanotte a tutti, io sono arrivato, Ciao a tutti, ciao Luca, ciao Vincino e ciao anche Marco Conco, Ciao, già. Ciao. Mi sono un po' chiudo. Devo fare una nanna. Cappa. Ciao Gianni, buonanotte. E buonanotte anche a Luca. Questo qui non c'è parcheggio, è una cosa incredibile, adesso la macchina ci dovevo mettere in galera. No, buonanotte, perciò. No, Marco lì, buonanotte. Sì, buonanotte anche a te, mi. Io adesso cerco parcheggio che qua è sempre un casino. Ciao Luca, buonanotte. Ok, a domani, io vado dopo domani. Anzi no, domani no, che vado a fare, forse. Buongiorno. Io ho appena cenato, papà. E io stavo chiedendo che vado a mangiare, c'è un parcheggio che qua non c'è mai, no? Buonanotte a tutti, Leoncino e Popone. Buonanotte a tutti. Io, ciao Marco, ci sentiamo le prossime. Buon coniti, buon tutto. Chi che c'è nel canale avanti? Perché sono le bombe, ma te lo bacio. Okay.